Iniziamo, ringrazio Vincenzo Gianni per essere venuti, ringrazio l'autore del libro Federico che ha accettato il nostro invito e do la parola a Federico. Sì, faccio un'università. Allora, a me è piaciuto il fatto che c'ha, come stile anche Vincenzo nell'introduzione, una scrittura senza fronzoli, non barocca, molto secca, frasi brevi, subito al punto, Federico. Anche se però, visto che c'è una scrittura così, per quanto lo spieghi, non capisco perché la terza persona che rallenta. Io avrei usato a quel punto una prima persona, visto il tuo stile di scrivere. Mi fa molto piacere perché, per dirti, anche scrittori che amo, come Volman, Don DeLillo, così, per me quando li leggo sono pesanti. Io preferisco scrittori della scrittura veloce come Edmund Leonard o Tidman, quello della saga di Shaft, il detective afroamericano, che hanno fatto anche dei film della Black Exploitation. Ma perché mi piacciono e perché riescono a costruire anche con una frase secca, una parola secca, un personaggio, e non usare con gli amici Cumming 200 pagine per costruire un personaggio, perché addirittura se leggete Mr. Paradise di Leonard, a un certo punto, quando entra la Dark Lady, la terza parte di questo noir, c'era stato un punto prima, entra lei e dice era bellissima, appunto. Lì ti costruisce il personaggio. Però è un modo cinematografico, perché lì mi sono immaginato per costruirlo, che ne so, Lauren Bacall, nel grande sogno del romanzo di Chandler, con Nancy Pogart che fa Marlo. Però Leonard è uno sceneggiatore, anche di cinema, anche però sceneggiatore di Jackie Brown. Tidman, più che conosciuto come romanziere, è conosciuto per aver vinto l'Oscar per la migliore sceneggiatura originale per quel capolavoro di film del 72 che è Il braccio violento della legge. Allora, visto che Federico fa una trasmissione non solo di teatro ma anche di cinema, da un appassionato di cinema, io voglio chiedere, la tua scrittura è veloce come usano i grandi narratori che però prestano la loro penna anche al cinema? Perché tu, amante del cinema, ti piace questa lettura, intuizione visuale delle cose, e perciò se la puoi riportare in scrittura, una intuizione visuale, so, delle frasi secche così che ti riescono a costruire senza barocchismi, solo con la visione, come quell'era, era bellissima, ha detto di del grande Edmund Leonard nel romanzo di Mr. Paradise. Lo stile secco probabilmente nasce dal fatto che ho una grande passione per la poesia e soprattutto la poesia breve, modello haiku giapponese. E questo fin dall'adolescenza. Dopodiché ho intrapreso il giornalismo scritto e lo stile giornalistico sicuramente influenza poi, oltre al fatto che io ho anche cominciato a scrivere poesie sempre in quello stile secco e sintetico. E poi sicuramente c'è anche la passione per il cinema e quindi, dato che il libro è costruito come una sorta di diario, ha una sequenza temporale ma anche dei salti temporali, sono dei piccoli episodi che mi sono rimasti impressi nella memoria e li ho pensati in maniera molto visuale e quindi sono costruiti in quel modo. Sì, sicuramente è un mosaico che è un tributo anche al cinema. Ho imparato ad amare fin dall'adolescenza, insomma, è un video noleggio e lì poi parte tutto il racconto che potrebbe essere Tarantino, pure lui lavorava in una videoteca. Anche Clerks. Anche Clerks. Insomma, queste sono un po' le ragioni, probabilmente anche il tipo di scrittura che ho sempre letto e amato è di questo tipo, quindi va da sé che il risultato sia questo. L'ultima cosa, questa è una domanda, ma ti ringrazio solo, perché l'altra cosa che mi fa paura, so sempre nel caso di due grandi scrittori mi piacciono, Volman o Cumming, ma in modo particolare il mio amico Roberto Bui, Cumming è uno, che Ponte Lana, grande romanzo, ma io ho portato al mare, non fate sedere perché pare che sta a scuola a leggerti quel libro, che devono fare questi libri in cui mettono in mostra il loro sapere enciclopedico. E allora, che ne so, in Volman, mentre ne parla di guerre tra i rocchesi e uroni, inglesi e francesi che occupano il Canada, col fatto che ci sono gesuiti francesi che provano a convertire gli indiani, a un certo punto in mezzo a palla della tortura, cacciatori di pelle dei castori, guerra tra inglesi e francesi, 100 pagine su Sant'Ignazio di Loyola. Allora, quando ho letto la cosa tua sui partigiani della Repubblica dell'Onesto, ho pensato, cazzo, meno male che non l'ha scritta, Federico, non c'è il vizio come Bui, come Cumming uno, perché se no avrebbe parlato di tutte le repubbliche partigiane. a quel punto non si poteva non parlare di quella di Alba, perché c'era Fenoglio, non solo il partigiano Giorgi, ma col fatto che c'era anche il partigiano Paglietti, che ha messo nome a sua figlia Alba, avremmo parlato anche della prima donna la domenica sportiva. Non sono uno storico e ho una formazione completamente da autodidatta, questo sia per quanto riguarda la cultura e per quanto riguarda la politica, e quindi è più legata al fare, come l'avventura nell'autogestione dopo il movimento studentesco della Pantera del 90, quando a Monteverde ho detto io voglio fare un centro sociale in questo quartiere, per vedere dove vivo e dove non c'è niente ci costruisco un centro sociale. E quindi le cose poi sono nate facendole. Non ho avuto padri, non ho avuto fratelli maggiori, tra l'altro è uno dei più grandi d'età quando mettemmo sul collettivo per l'occupazione di Ascatasuna. Ed è stato tutto un po' così, legato alla militanza, i cortei, le manifestazioni, le occupazioni, tutto si è sviluppato così. Gianni, mi ritrovo a condurre a sto punto, il Duca Pesaro. Il Forte Prenestino è un pezzo di cuore, è molto presente anche nel libro, secondo me è una delle esperienze romane più libertarie, più internazionali, diciamo che a livello europeo il Forte Prenestino non ha uguali, è un esperimento continuo, generazioni che si sono susseguite, sicuramente un modello anche per questa città dal punto di vista sociale e culturale. Sì, certo, sicuramente il Forte è una delle esperienze che negli ultimi 30 anni ha caratterizzato una certa scena politica, iniziale da appunto l'esplosione nella metà degli anni 80 di quello che poi è stato chiamato il fenomeno dei centri sociali, di questa voglia di riprendere in mano la propria vita e la politica dopo gli anni 70, dopo appunto, il collasso, e questo ritornare verso se stessi, c'è stata questa grande voglia di riuscire invece fuori. La cosa appunto, voglio dire, che ha determinato veramente questa possibilità è stata un'esplosione, diciamo quasi simultanea, perché quell'esperienza è stata un'esperienza che si è moltiplicata a macchia d'olio in modo pauroso in pochissimi anni. In pochissimi anni l'Italia dà ad avere appunto qualche esperienza di centri sociali. Ce ne sono in Italia anche da molto prima, ma delle esperienze appunto salute, cioè a Roma c'era stata la Pugno Fiamma, c'era stata la vecchia occupazione del collettivo politico antagonista. Alcune piccole esperienze che erano poi comunque anche molto diverse da quello che poi i centri sociali poi sono diventati, ma che comunque puntavano verso quel tipo di presa della lotta, insomma. E sicuramente il Forte, voglio dire, è materia anche, ecco, come poi il tuo libro testimonia, voglio dire, di un vissuto che ha attraversato tutte le persone e che proprio nella sua natura così aperta dal punto di vista sia politico ma anche culturale, cioè, voglio dire, quindi ha dato la possibilità un po' a tutti di poterci, anche con le dovute differenze politiche, però di trovare un livello di comunicazione, trovare un proprio spazio, trovare un proprio agire, e quindi questo poi si ritrova anche in molto di quello che oggi e da un po' di tempo magari molte persone tentano di raccontare, e quindi compare molte volte nel vissuto di molte persone, diciamo a 30 anni e questa volta. Si stava notando anche questa cosa, è uscito pochi mesi fa Detonazione, quell'antologia sugli anni 90 a Roma, da tutti i punti di vista, delle radio, delle riviste, dei rave, dei centri sociali, e quanto ha prodotto la città in termini sociali e culturali. E in effetti però è stata raccontata poco. Mi sono reso conto di questa cosa e mi sono ritrovato ad avere anche pochi appigli, ho fatto tutto sulla memoria personale, anche poi mi sono anche confrontato con pirati, ma non solo, per ricostruire pezzi di vissuto. E questo manca. Però sono perfettamente d'accordo, era una riflessione che facevo proprio oggi, sono in visione di questa cosa, e pensavo che per esempio a fronte dell'esperienza che ha attraversato per molte centinaia di migliaia di persone, milioni possiamo dire, il ritorno, cioè nel senso, come dici tu, c'è poco di scatto, ma anche di restituzione del vissuto, sia a livello individuale che anche politico. A livello politico qualcosina si è cercato di fare, ma diciamo poco, ma a livello appunto mi domandavo come mai questa moltitudine di persone, no? Che hanno attraversato questa esperienza, che hanno vissuto, che dentro sono cresciuti, che dentro hanno sedimentato in parte anche il proprio essere, no? Come mai a fronte di questo e addirittura, se vuoi, un riconoscimento quasi ufficiale di un'esperienza, ormai stiamo anche a quello, si sta storicizzando anche, probabilmente questo tipo di esperienze noi le troveremo anche domani in libri che manco ci pensiamo che esistono. Quindi sta diventando storicizzata, come mai non c'è appunto questa invasione, non so come dire, dovrebbe essere quasi una cascata, no? Cioè veramente, specialmente da tutta una serie di persone che appunto hanno anche l'età del vissuto. È una cosa appunto su cui sono d'accordo, me lo sono chiesto, anche perché per esempio lo vivo anche a livello individuale, per esempio. È una cosa che io mi sono posto tantissime volte, quello di trovare un modo per raccontare la mia storia e la storia di tanti, come hai cercato di fare tu. E io penso che sarebbe molto importante, anche perché dentro c'è un patrimonio enorme che non può essere riconducibile solamente ad una persona, ad una determinata situazione, ma è stata così, ed è, oggi meno, però comunque è stata così ricca, così variegata, che veramente ha creato la possibilità per un panorama molto ampio, secondo me, quindi per poter dare appunto, un proprio vissuto. Quindi penso che è giusto, sì, è vero, bisognerebbe scrivere di più. No, bisognerebbe scrivere di più, sono d'accordissimo, a tutti i livelli. Cioè non è un problema, non penso che debbano scrivere solamente persone di una certa età e che quindi hanno anche dietro un certo vissuto. E lo scrivere fa sempre bene, un'altra cosa che oggi su cui riflettiamo, ci rifletto sempre, fa bene a se stessi, fa bene all'alma e fa bene anche a chi poi si approccia alla lettura. Quindi è sempre uno strumento importante, specialmente anche nei processi della memoria, perché poi pensiamo a un'altra cosa, abbiamo sempre detto, no, da una vita, la storia la scrivono i vincitori, e i vincitori purtroppo difficilmente siamo stati noi, insomma, a livello storico, quindi ce l'hanno sempre raccontata, e invece bisogna raccontarla, anche perché l'evoluzione tecnologica, tutta una serie di strumenti hanno dato la possibilità oggi, da una possibilità maggiore nella comunicazione. E però c'è questa cosa, probabilmente perché quello che io credo è che forse tutti noi non abbiamo fatto dei conti collettivamente su tutta una serie di cose, e questo penso che inficia proprio anche a livello personale, perché per chi ha vissuto sempre il suo rapporto nel sociale, vivere anche dei livelli di individualità non è sempre facile, perché per una vita il tuo riscontro è stato quello dell'altro e dell'altra, il tuo essere è stato quello di dimostrarti insieme agli altri. Quando questo viene meno e c'è chiaramente un ritorno verso di sé, da una parte si apre un discorso sulla riflessione, un momento, può essere anche un momento importante, perché dà modo di avere anche, se vuoi, un certo distacco. Secondo me quello che tu hai cercato, e poi non ci sei riuscito, dico in modo così, nel senso, perché poi è la tua storia, cercando di mettere in terza persona, no? È un meccanismo, no, che cerca di dire, che però poi alla fine invece ha spostato da raccontare a raccontarti, che è una visione, no, certo, chiaramente di parte, certo, di parte, ma è giusto che sia così, perché se ci raccontiamo, raccontiamo quello che siamo stati. In questo appunto, rispetto al libro, questo tipo di approccio mi è anche piaciuto, cioè è interessante, ecco, diciamo che è interessante, al di là del giudizio, però è interessante perché può dare veramente la possibilità dopo, a posteriori, di poter avere anche una visione più distaccata. Vabbè, il tuo romanzo è appunto una cosa in cui poi tu rivendi continuamente, per cui poi ritorni a te stesso, però dico che questo modo appunto oggi di essere, se vuoi, anche un po' più distaccati, potrebbe darci invece la possibilità veramente di ritrovare un modus, ritrovare appunto la possibilità di ritrovarci e ridiscutere a cominciare proprio appunto da una visione più distaccata da quello che siamo stati, che siamo anche in parte, siamo, ma che è anche differente da quello che eravamo, oggettivamente così. Quindi in questo, voglio dire, questi tipi di processi secondo me sono interessanti. Oh, Vincenzo, la scorsa volta tu hai inanellato una serie di vittorie che invece questo movimento dagli anni 80 ad oggi ha messo insieme, non so, sono state solo sconfitte, anche se poi quelle forse sono quelle che fanno male e uno se le ricorda tanto. Cioè, ti so di più. So di più sicuramente. Però non so se anche tu noti questa mancanza di autonarrazione rispetto a chi ha vissuto quelle stagioni. Tu hai fatto bene, poi ti faccio io una domanda. Recuperare ovviamente una memoria tua collettiva di quello che è stata la generazione della Pantera e diciamo quelli che hanno vissuto i cosiddetti anni 80, quelli del riflusso. Io che ho un'altra stagione, un'altra generazione, eccetera, e che vengo costantemente chiamato ovviamente sulla memoria dell'ultimo movimento a carattere rivoluzionario che è stato il 77, invece costantemente confuto che quegli anni 80, Gianni ovviamente ci è intervenuto sul forte, ma se viene sconfitta un modo di fare politica a causa della nostra soggettività anche o della ipersoggettività dell'avventurismo, vedi il brigadismo e quant'altro, e con questo non prendo scuse, la sconfitta è stata per tutti, un nuovo modo di fare politica adeguato alla vostra generazione dei centri sociali, degli spazi sociali, e questi avvengono completamente negli anni Ottanta, non è che avvengono in un'altra stagione, un altro modo, è un modo più pensato anche sul piano individuale, per la soddisfazione anche di alcune vicende individuali, personali, eccetera, e però avviene lì, ma avvengono a compimento quelle battaglie degli anni precedenti che trovano in quel crinale degli anni Ottanta le vittorie. E lì io le cito per tutti, ovviamente quella del nucleare su tutti e nel mondo ovviamente è stata una vittoria, perché non è un episodio legato ovviamente all'energia e basta, perché su quella battaglia dell'energia nucleare ci si è mossa l'Europa e il mondo. Noi che abbiamo conosciuto le compagini che combattevano all'epoca in Germania e che poi una parte di queste sono confluite nella Rotarmee Fraktion oppure nelle cellule comuniste e via di seguito, ma una parte ha mantenuto la caratteristica antinucleare antagonista. Oppure abbiamo conosciuto i movimenti dei casseurs francesi che a Malville perdevano Michelon, che era uno dei compagni che c'aveva all'epoca 24 anni. Oppure che in Belgio avevamo questi rapporti con un pezzo del partito comunista marxista-leninista che anch'esso faceva la battaglia contro le centrali nucleari. Tu dici, ma a quel punto perché solo l'Italia vince sul nucleare e gli altri ancora hanno il nucleare? Perché un passaggio di altra natura derivante anche ai percorsi, ai processi dell'autonomia operaia, quindi autonomia operaia sta intanto perché tu sei stato in mezzo o eri nel movimento degli operai antagonisti un po' in tutta Italia, e che quindi quando sei tutto questo l'hai trascinato sul campo di Montalto di Castro in particolare, ma anche a Caorso, eccetera, ti sei trovato nelle possibilità di saper interpretare il lessico e le parole di quegli operai affinché comprendessero che non poteva esserci una separazione netta tra il rifiuto del nucleare e perdere il lavoro, quindi perdere da mangiare, perdere quel sostentamento, eccetera. Questo ci è voluto un po'. Ma alla fine è stato il modello vittorioso, perché la cosa non si è ripetuta in Francia e lì c'è stata la sconfitta e la Francia ancora va tutto nucleare. Non si è ripetuta in Germania, perché ovviamente poi i processi che io definisco avventurismo ovviamente hanno portato a un estremismo di autoisolamento e via di seguito, crashando anche il movimento antinucleare purtroppo da solo e quindi in quell'epoca sicuramente perdente. E qui invece tu ti trovi in pieno 1986, in un anno con qualcosa come 17 blocchi antagonisti, con gli scontri, quelli che ci sono stati, io stavo in galera all'epoca sempre per il nucleare, quelli che sono stati quel 16 dicembre a Montalto de Castro se lo ricordano tutti, Misia ce aveva 14 anni, tu magari ce n'avevi 18, voglio dire, eccetera. E lì il pareggio c'era, 1000 compagni e compagne contro 1000 poliziotti, carabinieri, finanze, eccetera, il corpo uno a uno, è stato un confronto, qualcuno ha detto è stata la guerra, sì è stata una guerra, per quello che è stato, e loro hanno pure sparato, hanno colpito 5 compagni alle gambe, ai ginocchi, eccetera, eccetera, con i proiettili e via di seguito, ma non hanno vinto, non sono stati capaci a piegare ovviamente tutto questo, perché in qualche misura, dopo la pesantezza di quel dicembre ovviamente eccetera, si è saputo ricostituire attraverso dei passaggi che hanno messo in collegamento anche l'ala moderata del movimento antinucleare, che non aveva mai mosso un dito nei blocchi, che non aveva mai fatto nessuna azione diretta, affinché si capisse che ormai era pronta, era matura questa battaglia. E badate bene, non ci siamo fermati un attimo, perché quando è arrivato quel novembre del 1987, in un anno da Chernobyl, il referendum sanziona definitivamente questo, ma i blocchi, a partire da febbraio 87, dopo quella batosta che prendemmo a dicembre, erano stati tutti vittoriosi. Cioè era sufficiente che 100, 200, 300 antinucleari si portassero ai cancelli, parlassero con i lavoratori, che i lavoratori facevano dietro fronte, rimontavano sull'autobus e se ne tornavano a casa. E questo è stato decisamente importante, e decisamente importante lo è stato perché non abbiamo lasciato solo i lavoratori quando, chiusa la, con lo, il referendum, potevi dire arrivederci e grazie, ho vinto, come spesso hanno fatto le avanguardie, il ceto politico spesso ha fatto così, lo fa tuttora così. Invece i lavoratori che stavano a mezzo alla strada e si paventava per loro 7.000 licenziamenti in tronco, abbiamo cominciato le stesse cose che facevamo come antinucleari, il blocco da Aurelia, il blocco da Ferrovia e tante altre cose di questo, e quelli, non tutti quegli antinucleari, ma una parte, almeno quelli che provenivano da Via dei Volsci in particolare, ma altri ancora, un altro anno di battaglie come quelle. Ci siamo fatti i processi, io ho subito i due processi, uno per antinucleare antielitteram, avendo bloccato la linea ferroviaria a Capalbio insieme a tanti altri, siamo stati assolti da quel vecchio pretore per aver agito in stato di necessità. Ma sono stato assolto a Civitavecchia insieme agli operai per aver bloccato la ferrovia all'altezza di Montalto per agito in stato di necessità. Cioè, voglio dire, questo è stato un passaggio, lo vuoi chiamare vincente? Altro che vincente, primi al mondo, tuttora siamo primi al mondo, non ci sono venuti molto altri dietro. Qualcuno dice sì, bisogna aiuto sul nucleare, ma ancora non si chiude niente, ancora stanno, anzi, se dobbiamo dire, la Cina ha ordinato 4 centrali nucleari, l'America ne sta ordinando 2, si è calmata un pochettino e via di seguito, i paesi emergenti stanno costruendo centrali nucleari, l'Arabia Saudita ha ordinato 2 centrali nucleari all'America ovviamente eccetera, e altri stati del Golfo, avendo pozzi di petrolio all'infinito, vogliono il nucleare perché sanno che quella energia non è a tempo indeterminato. Questo è stato la vittoria sul nucleare che ancora pesa e viene illustrata nei libri europei e internazionali. L'altra vittoria è stata Comiso. Comiso è stata una durissima battaglia che ci ha visto protagonisti a prendere un sacco di botte, perché in quelle difficoltà post 1980, post sequestro e morte di Moro, post volte andate in fallimento dentro le carceri eccetera, era prevalso per un attimo la necessità di non alzare troppo la cresta, per poter avere con noi anche quel movimento pacifista che ovviamente fa della non violenza, in questo caso molto ipocrita, badate bene da questo punto di vista, ma ci siamo subordinati. Per chi è stato Comiso in quel del 1983, l'8 agosto del 1983, sa bene che per circa 10 giorni, avendo portato giù 1500 compagni da tutta Italia e avendo vissuto in quel campeggio così stretto, così piccolo, uno appiccicati all'altro per poter arrivare ai blocchi, e finalmente ci siamo subordinati alla necessità della non violenza per poter non essere discriminanti di tutto. Prendemmo un sacco di botte, 120 persone all'ospedale, massacrati. Il problema è che era veramente un massacro, perché ci siamo messi seduti come tanti coglioni perché aver accettato questo profilo, e lì botte da orbi senza che potevi fare un salto da nessuna parte. Quella lezione ci è servita perché Gianni lo ricordava, perché l'acqua veramente violenta è stata a settembre, una settimana d'acqua pesante, eppure ogni giorno stavamo davanti ai cancelli e davanti ai bidoni dell'acqua che ci sparavano addosso, oltre a quella che veniva dal cielo da questo punto di vista. Beh, quella fu una battaglia che nell'arco di 2 anni noi riuscimmo a portare a casa, perché anche c'era un grosso movimento che ha messo in piazza 500.000 persone a Roma come manifestazione nazionale, in quel momento in cui si pensava che la guerra termonucleare scoppiava da un momento all'altro. E l'ultimo episodio che è un episodio importante che avviene verso la fine degli anni Ottanta è quello di Capo Rizzuto, quando con i campeggi antinucleari, che era una storia che era cominciata a Montalto di Castro nel 77, dove compagni e compagne venivano ovviamente anche per prendersi un momento lungo di socialità, per stare insieme, per un vissuto, per una ecologia della parola, si trovarono a combattere contro questa neo base NATO che nessuno voleva. Beh, scendendo giù nell'88 in Capo Rizzuto, io conoscevo sì e no 6 persone a Capo Rizzuto. Sono dovuto andare a parlare anche con l'Andrangheta, con le due famiglie che governano tuttora Capo Rizzuto, gli Alvaro in particolare, giusto perché questo me lo ricordo, sono andato io direttamente a parlare col capo famiglia, perché ero preoccupato, vengono giù 300 compagni e compagne, vengono da Roma, da Milano, da Bergamo, eccetera, che ne sanno di che rapporto c'è? Lì non c'è niente, alzare le canne, non quelle che si fumano, e per cui la preoccupazione era quella, ovviamente, eccetera. E quello, quando ti senti dare la risposta, a noi della base NATO ci sta pure sul cazzo, non me ne frega proprio niente, quindi già c'hai un pezzetto di agibilità da questo punto di vista. E questo ci ha permesso di conquistarci la popolazione di Capo Rizzuto strada facendo, perché poteva anche loro pensare che meno male arrivano sordi nuovi qui dentro e via di seguito, che sì, c'è Campano, come spesso avviene in Calabria, in Sicilia, purtroppo, eccetera, eccetera, o avveniva. Ebbene, lì ci sono voluti 4 anni e c'è voluta la discesa della Pantera l'anno successivo, l'89, ovviamente, in cui 200 compagni, soprattutto romani della Pantera, ci sono le foto che lo ricordano, eccetera, in un agire azionista, ma anche in un agire festoso, innamorato, tanti innamoramenti ci sono stati in quei momenti molto particolari, in quella spavalderia che nonostante erano quei tempi, nei confronti dei carabinieri, nei confronti della polizia, eccetera, non ci siamo mai ritirati indietro un attimo perché erano tempi già diversi. Beh, 4 anni sono stati importantissimi e ci hanno permesso di essere i paladini di quella popolazione, soprattutto perché sapete bene, quando ci passa la NATO sopra e quando ci passano i militari, pensavano di essere i padroni del mondo. Hanno fatto degli errori tragici, come quello di aver abbattuto nottetempo 80 ulivi di quelli secolari su 800 ulivi che erano il passaggio ex feudale che permetteva a chi non aveva olio di poterlo emungere, ovviamente poter portare a casa i propri 10-20 litri eccetera, quello che si chiama proprietà condivisa. E beh, tutto questo è stata una sollevazione popolare ed è stata per noi una grande soddisfazione. Ecco, per chiudere, 3 momenti tutti intervenuti negli anni Ottanta, cosa possono non significare se non la capacità che c'era in un passaggio sicuramente diverso dei movimenti antagonisti, ma che sicuramente avevano e poggiavano su questa nuova realtà che erano gli spazi sociali, le realtà sociali, i centri sociali che si erano diffusi in tutta Italia. Abbiamo parlato del Forte, l'anno prima del Forte c'è stato l'85 della Visto Quinto, l'87 ha visto l'occupazione del Laurentino e via via, e poi è arrivata a Scasatuna perché il giovane Fedingo gli prudevano le mani e non gli piaceva che a Monteverde ci fossero solamente una certa agibilità ai fascisti, che ci doveva essere ovviamente invece anche una presenza importante ovviamente da parte dei compagni, e poi avviene pirateria e poi insomma ancora c'è stata una diffusione sicuramente della capacità di fare politica in un altro modo. Ma io voglio ripartire io alla domanda, al di là del fatto che te l'ho detto e lo penso, che la memoria va esercitata quando siamo giovani, perché c'è un tradimento della memoria, ma non da parte ovviamente di coloro i quali sono avvezzi a tradire la memoria, che sono quelli che passano dall'altra parte, i revisionisti della memoria, eccetera, ce ne sono tanti a tutte le età, ma perché spesso e volentieri si arrivano a scrivere le memorie verso la fine della vita, e scrivendo le memorie verso la fine della vita i ricordi impallidiscono, a meno che non c'è una grande ricerca, ovviamente allora ti metti a lavorarci, passi 10 anni ovviamente per ritrovare i fili completi della memoria, ma spesso il tradimento, tra virgolette, della nostra memoria avviene perché ragioniamo al presente. Non riusciamo più ad avere la memoria del ragionamento al passato, perché dovevi farlo in quel momento in cui è avvenuto. Per cui questa capacità che hanno soprattutto le donne, molto meno i maschietti ovviamente, eccetera, di non farsi il diario, di non appuntare non solamente l'evento, ma la riflessione sull'evento, l'aneddoto sull'evento, diventa importante se vuoi recuperare ovviamente quello che è la memoria viva. Perché spesso e volentieri, sai, sei capace di essere buonista quando arrivi a questa età. Le tue emozioni sono più forti ovviamente di quando ne avevi, eri un po' più cinico o eri un po', come dire, pane pane vino al vino. Quindi in questo senso volevo dire, ma te perché ti è venuto il prurito a 50 anni, punto interrogativo? Beh, poi lo spiego anche nel libro, c'è stato un primo segnale in cui ho temuto l'infarto, invece era reflusso che c'ha gli stessi sintomi di un infarto, ho detto qui si muore da un momento all'altro e manco te ne rendi conto, in piena notte. E poi, oltre al fatto che la mia compagna, sentendo ogni tanto i racconti, vedendo tutte le persone che conosco in giro a Roma, diceva ma perché queste cose non le scrivi? Però io pensavo ma a chi interessa e poi per quale ragione? Poi l'ultimo episodio è stato all'inizio dell'estate di un anno fa. Andrea Catarci, ci conosciamo dal Movimento della Pantera del 90, ha scritto il suo libro di ricordi Generazione di Rimessa, sul quale l'ho intervistato per la radio. Dopodiché lui mi ha proposto di fare una presentazione insieme fuori Roma e sentendolo parlare, leggendo il libro, ho detto vabbè, ma allora è un'operazione possibile, anche perché leggendo la sua storia è vissuta con delle vicinanze, perché un pezzo di militanza politica si è fatta nei centri sociali. E poi, mettendo insieme un po' di ricordi, ho detto beh, ci sono tante cose importanti, una su tutte, il capitolo sul processo Kripke, che è stato, diciamo, a livello mondiale un punto importante che ha sancito poi, grazie alla rivolta dopo la sentenza che l'avrebbe rimandato in libertà a Viale delle Milizie, quando ci fu il tam-tam lanciato da Radio Onda Rossa, arrivarono lì i compagni e le compagne del movimento antagonista, si barricarono alcune di noi dentro al tribunale insieme alla comunità ebraica che era presente anch'essa al processo, e questo ha fatto sì che poi arrivasse il mandato di cattura anche dalla Germania, la richiesta di estradizione, e Pripke è rimasto dentro e ha subito il secondo processo. Questa volta, memori di quanto era successo la prima volta, lo hanno spostato all'aula bunker di Re Bibbia, ed è stato un precedente giuridico importante perché ha sancito la non prescrittibilità per i crimini di guerra e soprattutto la responsabilità individuale, perché in un analogo processo a Kappler i suoi pari grado furono assolti perché avevano obbedito ad ordini, e così da quel momento invece non è più, ognuno risponde davanti alla storia ma anche davanti ai giudici delle proprie azioni. Dal passato al futuro, Gianni, mi chiedevano come vedi la situazione oggi, e ragionando un po' su quello che si sta muovendo soprattutto a livello globale, ci sono stati vari fermenti, dal Friday for Future lanciato da Greta, quindi tutta la questione ecologista, al Me Too per quanto riguarda la differenza di genere e la violenza di genere, e poi Black Lives Matter per quanto riguarda la questione razziale ancora irrisolta. E avevo visto anche con curiosità il Movimento per dirti delle sardine, al di là di quello che poteva sviluppare, però se tu ci pensi, con il semplice tantam a livello nazionale ha portato in piazza migliaia e migliaia di persone, e tu capisci che c'è voglia di... le persone vogliono essere protagoniste. E questo mi è sembrato il meccanismo più importante di quel fuoco fato, perché poi insomma quello è stato. Però ti dimostra che ancora c'è voglia di mettersi in gioco. Manca un soggetto di riferimento, casomai. Però secondo me tante potenzialità ci sono. Guarda, io penso... anche io ho salutato, sono stato contento della nascita di tutta una serie di movimenti internazionali di cui hai fatto riferimento, perché sento, cioè sono convinto che ci sia in questo momento, e questo perché le grandi crisi aprono sempre degli spazi enormi, e proprio nel momento in cui il gioco si fa più duro, e che si aprono degli spazi reali in cui anche molte volte c'è lo scatto per cui le persone, vivendo in modo forte sulla propria pelle determinate condizioni, insorgono, no? Nel senso che insorgono dal punto di vista personale, non parlo dal punto di vista personale. Ci mettiamo in questo movimento, questo bisogno di uscire dalla propria condizione minima e confrontarsi, cercare, no, l'altro per una serie di cose. Tra le altre cose, non ci sono solo questi movimenti che sono quelli che hanno condizionato negli ultimi anni il nostro vissuto politico, prevalentemente occidentale. Perché, per esempio, in molte altre parti del mondo c'è uno scontro economico fortissimo. Cioè, voglio dire, è uscito fuori anche lo scontro sociale. Guardiamo, per esempio, in Sud America, quello che sta succedendo in Cile. Cioè, oltre a tutta una serie di movimenti che stanno tagliando il mondo in modo orizzontale, ci sono delle insorgenze laddove il capitale è ancora gretto, no? Per certi versi esercita una pressione di stampo quasi ottocentesco, no? Quasi primitivo, nel senso del Sud America, voglio dire, mi raccontavano delle cose aberranti, veramente lì. Cioè, il fatto che tu stai, cioè, vuoi avere casa, cioè, arrivano gente e ti dicono: questa casa è mia, te ne vai adesso così, tutta la terra ce la prendiamo noi. Cioè, siamo a livelli molto di un conflitto pesantissimo. Ci sono delle insorgenze che invece fanno un discorso molto anche più ampio dal punto di vista sociale, di rivendicazioni, di una richiesta totale. E questo lo vedo in tantissime aree del mondo, anzi, negli ultimi 10 anni c'è stata veramente un'insorgenza molto grossa, il conflitto è sempre più forte. Quello che manca, non so se è la parola giusta, quello che caratterizza, ecco, queste cose, è che sono dei movimenti che fanno, è vero, hanno un tracciato internazionale, ma fanno molto riferimento poi a delle situazioni molto anche specifiche a livelli nazionali, e quindi vengono un po' assorbite a secondo di come insorgono, ecco, diciamo così. Quello appunto che non c'è è la capacità di vedere e di creare un tappeto su cui queste insorgenze possono essere comuni, cioè, per dire, nel senso, avvicinarsi e dare un'idea maggiore, perché se no c'è veramente il rischio di quei racconti distopici di fantascienza in cui esistono dei mondi in cui delle insorgenze sono connaturali proprio alla cosa, per cui sono quelle esplosioni, un po' Brasil, se vi ricordate, che ogni tanto esplodeva una bomba, non si capiva un cazzo. Cioè, lì, ogni tanto, boom, che davano l'idea di un conflitto, ma che non sedimentava nulla, cioè poi alla fine la faceva parte del tutto, era la parte endemica di questo. Allora, dal fatto dei movimenti di insorgenza al fatto che si possa determinare un cambiamento grosso, ci vuole un passaggio, l'esercito è un passaggio. Ecco, in questo io vedo oggi una carenza, una voglia molto grossa. Vedo anche, per esempio, una cosa che io penso che le nuove generazioni, questi proprio di adesso, cioè non sono i 25 anni, quelli ancora più giovani, secondo me sono molto diversi da quelli i 25 anni, 26, 30 anni, cioè hanno una potenzialità molto maggiore, per assurdo, hanno una spinta, se vuoi anche primitiva, quasi di bisogno vitale, molto, come dire, no? Potremmo dire psicologico, non so, l'abbia così, però hanno una spinta, forse perché non vedono futuro veramente, loro lo stanno provando, perché noi comunque abbiamo vissuto, come diceva Vincenzo, una delle stagioni forse più entusiasmanti dal dopoguerra, dalla resistenza ad oggi, no? Che sono gli anni 70. Però è vero che noi non stavamo bene quelle lì, ma noi parlavamo di futuro, no, però veniamo da una cultura che si faceva al sol dell'avvenire, che comunque era proiettata in avanti. Oggi ci sono intere generazioni, cioè generazioni intere, che non vedono questo futuro, e questo forse il fatto di, appunto, di essere poi incagliati in un eterno presente, forse va ad inficiare proprio quel discorso di programmazione, di lungo raggio. Cioè, in questo c'è anche però, se poi, una sorta di mutazione quasi, no? Genetica, gli OGM sono spostati dal mondo vegetale a quello umano, e questi OGM sono riusciti in parte a farli, cioè lavorano per questa modifica. Per cui c'è questo problema, io vedo, cioè il senso è proprio questo, quindi recuperare, bisognerebbe recuperare tutta questa senso appunto, innanzitutto comunitario, perché quello che è stato il perno, il cuneo che ha proprio spaccato proprio, è stato un processo enorme, globale, di appunto di frammentazione e di ricaccia nell'individualismo, e quindi ognuno si caccia i cazzi e se la sbagli da solo. E questo chiaramente è chiaro che il controllo è enorme su una cosa del genere. Quindi io penso, ecco, che questo sia un po' il problema del perché appunto no, c'è tanta voglia, io la vedo proprio, ho anche per tanti problemi, ho tanti rapporti anche con ragazzetti 12, 13 anni, 14 anni, ecco, questi qui non sono proprio, cioè, malvagi, riescono in un mondo in cui sono stati costretti a vedere delle cose e in cui sanno benissimo che non hanno un futuro, e questo li inquieta e vorrebbero trovare insieme agli altri, perché hanno capito che da soli non ce la fanno, sono schiacciati. Volevo spezzare una cosa sulla quello che aveva detto Gianni sul fatto dei giovani, perché io mi sono ritrovato ad andare a un corteo sul clima e accompagnare mia nipote delle medie inferiori sul primo corteo. L'altra mia nipote di 16 anni, che era lo stesso più nuovo corteo, che faceva le superiori, proprio il fatto che non era mai andata prima alla manifestazione, ha detto a me, alla sorella e al padre: voi se mi vedete, non mi salutate, mi fate fare una figuraccia che è amici mia. Ma quando sono andata a quel corteo, con mia nipote che faceva le medie, c'era 12 anni, faceva la seconda media l'anno scorso, ho visto una cifra di bambini delle scuole medie inferiori. Io per il primo corteo l'ho fatto per Parte Rossi, che aveva l'anagrafe ancora 13 anni, dopo 10 giorni di scuola superiori a Arpinio. Ma quelli delle medie inferiori, io durante le medie inferiori già fremevo perché c'era il 77 quello vero, invece ho fatto solo la scarpetta, Parte Rossi e all'università a Bader-Meinhof, solo che come ho visto lanciare bottiglie chimiche che non capivo perché imbussavano queste cazzo di bottiglie, sono scappato appresso a delle compagne, ancora gli zattegoi, i zoccoli, le gonne lunghe a fiori, che meno male che sapevano la strada. Io la prima volta entravo dentro l'università, cappella universitaria, uscita lì di fronte, a fianco a neurologia, di fronte al policlinico, meno male che sapevano l'uscita e di soldare, stavo pure da solo. Però vedere bambini delle medie inferiori al corteo non avevo mai viste, io volevo andarci già da prima, ma aspettavo di fare il liceo, perché alle medie non c'è mai le medie inferiori, fai politica dal primo giorno, poi si già defreme una cosa. Però a parte aspettare questa cosa così, volevo dire un'altra cosa, però più che la domanda che hai fatto te, io la porrei così: perché in Italia? E tra l'altro c'era stato pure il 14 dicembre, un mese prima, nel 2010, perché dalla primavera arabe, da quelle vere, quelle del popolo, Egitto e Tunisia, non la Siria e la Libia, che sono un'altra storia, non le considero primavera araba o rivoluzioni, da allora in tutto il mondo ci sono state insorgenze. La Slovenia, la Spagna, la Grecia, l'Ucraina, gli Stati Uniti, la Francia, a ripetizione, Occupy Wall Street. Occupy Wall Street, che cosa che non c'erano stati durante il movimento non global, si avvicinano perché era solo un movimento solo dei bianchi, si riavvicinano i neri, ma perché? Perché occupi una piazza a downtown, a New York o a Oakland, porco mondo, il lobby è nero, dai la mania, dai il caffè caldo d'inverno, ti arriva, lì c'è il microfono aperto a tutti e si inizia a parlare. Poi c'è stato Ferguson e tutti i Riot, però le Black Matters non solo i neri, ma anche i bianchi. Poi adesso è ritornata la grande ondata, fino ad arrivare a parlare, ormai in America si parla dei traditori bianchi, perché ci sono servizi di ordine al corteo che si chiamano come il grande traditore bianco per eccellenza, John Brown Army. E che, come dice la canzone, fu impiccato come fosse un traditore, ma il traditore fu colui che lo impiccò. John Brown era quello che andava a liberare armato i neri dalle piantagioni, e poi, visto che la piantagione non si può cambiare, gli dava fuoco, come nel finale di Django di Tarantino. Perché non può essere, la piantagione è un dispositivo, punto, come Foucaultiano, chiamiamo cazzo di pare, però è veramente un dispositivo. Chiediamoci perché in Italia, a parte la Valsusa, non c'è stato, tutti gli altri paesi dicono, ma perché la Francia lo sarebbe tutte urtate, prima contro i comizi della Le Pen, poi l'occupazione, lotta al travaglio di Piazza della Repubblica, tipo l'indignato superò con i cortei selvaggi, poi c'è stato le guardie che violentano con il manganello nel retto del culo un Baldisardi e scoppia una rivolta che per la prima volta non riguarda solo il Baldisardi, ma riguarda tutti, tant'è vero ci sono stati dopo il lockdown i 100.000 in piazza, ricordo di lui che non so per fa 100.000, non so solo le gang della Bandiera, c'erano tutti, c'è stato il movimento a dicembre grandioso contro la riforma delle pensioni voluta da Macron che poi ha anche perso, ha dovuto fare una marcia indietro, ma che si è diffuso così tanto non tanto con i cortei, l'ho già detto anche quando parlavamo con Bifo l'altra volta, ma la cosa grossa è uno sciopero dei mezzi che comprende anche le feste di Natale con la gente che non si incazza di un mese e in più finisce con un'ondata di sabotaggio alla corrente elettrica che tra l'altro tu che fai a sabotare sai che te levi la corrente pure a casa e porco tu la gente non era incazzata, era a favore di chi è andato a fare sabotaggio. Allora chiediamoci perché in Italia, forse perché anche noi compagni dovremmo fare una domanda, la rivoluzione come processo e non significa che vedremo noi la rivoluzione, ma mantenere il discorso del divenire della rivoluzione come processo, noi anche nelle aree più radicali l'abbiamo persa, secondo me. Chiediamoci perché in tutto il mondo e tuttora si seguono il Cile forse l'esempio massimo, come ne parlavamo pure sempre qua con Bifo, e anche Franco diceva sì, il Cile oggi ha portato esempi pure nei suoi rapporti con compagni cileni di com'è la situazione, chiediamoci forse perché l'unico paese, nonostante la nostra tradizione, se vuoi di lotte più avanzate di altri, o almeno con una capacità di continuità che non devi aspettare 30 anni, se rinnovano sempre. Qualche mondo manca 10 anni da 7.079 e da degli arresti di massa e dell'eroina, come ha detto Vincenzo, pure detto un libro, stavamo a Montalto di Castro. Perciò noi abbiamo sempre avuto questa capacità in Italia, adesso non ce l'abbiamo. Siamo sorti alla situazione perché è l'unico paese che da quando è scoppiata la crisi economica al 2011 in poi, con le rivolte in tutto il mondo, non c'è stata una cazzo di rivolta. Eppure, guarda, nonostante tutti i movimenti che hai citato sono frutto ovviamente di una situazione irrisolta, la questione razzista in America è una questione irrisolta secolare, voglio dire, eccetera. E quello che avviene nel Nagorno-Karabakh, lasciamolo perdere, voglio dire, via di seguito. Quello che è avvenuto nelle primavere arabe, pure lì è la questione delle libertà, della coniugazione della libertà con un principio di democrazia, ma soprattutto di soddisfare i bisogni materiali che non vengono mai soddisfatti. La banlieue francese è un fuoco, come sempre è avvenuto, ovviamente per l'incapacità, l'impossibilità, dico io, non l'incapacità, l'impossibilità dell'internità di tutte quelle generazioni nordafricane dentro un capitalismo che li massacra, che li vede sempre all'ultimo posto della scala gerarchica. Gli stessi Gilets Jaunes partono, come tu ben sai, ovviamente da una condizione esiziale, il fatto che la benzina e i trasporti costavano l'ira di Dio e che poi alla quarta assemblea sono diventati ovviamente un movimento di carattere politico generale che ha le capacità tutte intonse di poter esprimere ovviamente una indicazione alternativa e antagonista. E però a partire da domani, se volete sintonizzarvi, vi mando le caratteristiche, 300 piccole e medie associazioni si confrontano sull'alternativa di società. Non ho citato, noi abbiamo citato il movimento delle donne, una di meno, che circuita ovviamente il mondo e che è un movimento di solidità inesauribile da questo punto di vista, che indica non solo la strada della libertà dalla violenza, ma indica la strada di una società altra, in cui il principio al femminile è il principio cosiddetto dominante rispetto a una società di merda come questa qua. In queste vicende ovviamente sta che dentro la pandemia, che per ultimo indica l'impossibilità che il capitalismo possa sostenere una parità di diritti ovviamente in mezzo alle popolazioni, a quelle che dominano ovviamente eccetera, tu ti trovi una quantità di soggetti estremamente moderati che non li abbiamo trovati fino a questo momento nelle nostre grandi manifestazioni precedenti, insieme a chi nel bene o nel male ha rappresentato, come dire, sta bandiera che sta la porta sulle spalle e via di seguito, si confronteranno domani per l'intera giornata sul capitolo della transizione alla società della cura. La transizione dalla società del profitto alla società della cura, che è una transizione che vede ovviamente una società completamente alternativa. Discutere su una società completamente alternativa, in cui per esempio sul problema del lavoro, ma chi se ne frega del lavoro? Ma chi se ne frega delle 8-10 ore di lavoro o delle 24 ore di lavoro? Noi vogliamo una società in cui al massimo si lavora 4 ore per la riproduzione, perché tutte le altre sono ore di socialità, di lavoro utile se lo vogliamo, di lavoro amichevole da questo punto di vista, semmai lo vogliamo chiamare lavoro, in cui vogliamo immediatamente uscire dalla società del fossile, che ha prodotto ovviamente la catastrofe ambientale, e che la catastrofe ambientale sta lì, pronta, non stanno aspetta a noi o le miserie che stanno dicendo loro. Se tu qui tra qui e 10 anni non sbaracchi il carbone, il petrolio, il gas, è finita. E noi se stiamo a più alla pandemia, se stiamo a preoccupare, cazzo, ci escludono dalla socialità, siamo fatti di sociale, se non siamo sociali che cazzo di uomini e donne siamo, almeno dal punto di vista nostro? Se non creiamo le condizioni di una democrazia altra, che non è la democrazia diretta del Movimento 5 Stelle, quella ridicola, quella fatta col computer, quella fatta col tasto che dice vota sì, vota no, eccetera, ma è quella che è rappresentata del Rojava. Qualcuno di noi sa che cos'è il Rojava, sa che quella democrazia parte dal villaggino, dal condominio piccolo, per arrivare ovviamente alla struttura generale in cui tutti sono rappresentati, in cui i generi sono paritari, in cui l'ambiente conta più di noi stessi. Beh, noi discutiamo di questo, quindi discutiamo della transizione. Ora, io mi auguro che dal discutere della transizione, che stiamo un pezzo in avanti, discutiamo la transizione ad un'altra società, ci possa essere non solo le parole, perché spesso abbiamo visto il tradimento delle parole, ma ci possa essere la ciccia, ci possono essere giornate in cui scendiamo in piazza, in cui scioveriamo socialmente, in cui rifiutiamo quelli che sono i doni capitalistici, in cui mettiamo in atto, cioè, una sovversione sociale, ci vorrà quello che ci vorrà, ma almeno stiamo discutendo di questo. Questo è importante, i giovani stanno facendo la loro parte, appunto, quando mai, tu l'hai detto, l'hai visti prima, hai accompagnato i tuoi nipoti, abbiamo visto i pronipoti, io da parte mia ovviamente, che partecipano direttamente, ci portano i genitori in piazza, visto che non c'è un nannà qualche volta e via di seguito. Beh, questo è già un segnale, è un segnale che hanno una coscienza in sé. A quell'età non devono avere una coscienza compiuta, voglio dire, eccetera. Quindi strada facendo la troveranno, ovviamente, troveranno l'incontro con chi gli sarà dare una mano e una capacità pari di poter fare quello che c'è bisogno di fare. Il problema è all'ordine del giorno, però, almeno nelle società mature, nelle società europee, nelle società capitalistiche, il problema della transizione è una discussione matura. A me interessa moltissimo questo passaggio, anche se so che alla fine della fiera, anche in queste condizioni così difficili, sarà poco praticabile il fatto che riusciremo in un tempo giusto, che ci auguriremo tutti quanti, a metterci insieme e a far sì che esista anche un principio comune in cui mettiamo insieme le nostre debolezze, cioè, ma non perché facciamo la sommatoria, perché capiamo ovviamente che senza questa nuova società non si va da nessuna parte, insomma, siamo già sconfitti in sé, quindi discutere di una transizione è decisamente importante. Grazie Vincenzo, grazie a tutti e a tutte, grazie Gianni. Grazie a te. Fatemi dire appuntamento, appuntamento il 1 novembre, come ogni anno, è la vittoria dei combattenti curdi contro l'ISIS, contro gli Scandagole, eccetera. Quest'anno è difficile tutto quello che sta avvenendo, perché c'è il boia turco che sta facendo diavolo a quattro, no? Va in Libia, si prende Cipro, il Mediterraneo, eccetera, eccetera. Allora ci siamo detti con i compagni curdi, eccetera, di ricordare questa giornata estremamente importante, che si ricorda in tutto il mondo. L'appuntamento, per essere più sociale possibile, a Piazza dei Mirti, sabato 31, dalle ore 16 alle ore 19. Va bene? Ci stiamo, insomma. Grazie a Vincenzo Meducci, Federico Raboni, a Gianni.